16:33 minuti, questa è Radio Onda Rossa. L'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola e stavamo appunto parlando della legge di stabilità e vorremmo anche continuare il discorso parlando anche dello sciopero generale che c'è stato venerdì scorso, indetto dai sindacati di base e che ha visto una partecipazione, in questo momento parlo del corteo in piazza qui a Roma, poi magari parliamo dello sciopero in generale. Il settore della scuola era presente, o meglio era presente ampiamente tutto il settore pubblico, insomma il pubblico impiego, la scuola in parte, anche se non grande, la sanità, erano settori molto più presenti degli altri, ecco, a questo sciopero, anche probabilmente per le condizioni di lavoro di chi lavora sotto i privati, dove è sempre più complicato far sciopero, insomma. Ma dipende, insomma, dipende che tipo di contratto hai, che rapporto di lavoro hai. Comunque, insomma, io credo che forse sicuramente ne abbiamo già parlato altre volte, che la situazione oggi nelle scuole è tutto meno che effervescente. Poi sull'effervescenza l'anno scorso abbiamo già fatto, sia l'anno scorso che quest'anno, ampie considerazioni. E quindi a parer mio, insomma, arrivare con uno sciopero generale, che ovviamente non riguardava solo la scuola, altri anni ci sono stati scioperi della scuola, poi da 2 anni mi pare c'è un unico sciopero di tutte le sigle sindacali di base, in una situazione, insomma, dove non si muove niente, non si muove paglia, ma non si muove paglia né a livello di chi lavora né a livello di studenti e studentesse, di chi studia, insomma. C'è una situazione, sì, che forse è riscontrabile in molte altre situazioni di lavoro, ma che insomma è abbastanza avvilente, al che uno si interroga proprio su, abbiamo parlato prima di stipendi al limite della povertà e ci risulta inspiegabile, no, come non insomma non ci sia un sussulto, ma un fremito, qualche cosa, insomma, rispetto a quello che ti cade sulla testa continuamente. Perché è vero che poi c'è stato un taglio dei consumi enorme, no? Questo l'abbiamo visto, è stato anche detto ufficialmente dalle varie associazioni, eccetera. Però insomma, addirittura per la prima volta da non so quanti decenni c'è stato un taglio nei consumi alimentari. Allora c'è sempre quello che dice: ah, meno male, perché si buttava un sacco di roba. Vabbè, sarà pure quello, può darsi che usciamo con una coscienza civica migliore da questa crisi, però di fatto, insomma, questo è chiaro che è un segnale che, insomma, poi siamo persone che viviamo nel mondo, non è che siamo in una torre d'avorio, parlo proprio di noi che siamo qui, di chi sta dall'altra parte del microfono e ci ascolta, per cui sappiamo quanto è difficile, soprattutto perché per esempio non è solo che hai tagliato i consumi alimentari, cioè a parte è diminuita per esempio la quantità di pattume, di immondizia, no? E questo pure è uno specchio. E poi risulta difficile, insomma, qualsiasi tipo di cosa, far studiare i figli, curarsi, perché io, che ne so, l'altra mattina stavo a fare un'analisi alla ASL, aspettavo il mio turno e sentivo la cifra che veniva detta da chi stava alla cassa, no, sulle analisi: 54, 78, sembrava proprio il lotto, 120, questo non è più lotto, insomma ormai siamo a livelli incredibili, per cui è evidente che la gente taglia anche là, con tutte le conseguenze, perché insomma uno stato oculato, non dico chissà che, dovrebbe comprendere che più tagli lì e quindi magari sulla prevenzione più ti troverai spese poi. E poi ci sono tutti i soloni della finanza iperliberista che dicono appunto bisogna tagliare le tasse cioè sto solo per il taglio, tagliare le tasse e tagliare ovviamente anche le spese, che sono c'è il discorso per esempio dei tagli della politica, no? Che sono stati tanto sbandierati, è propaganda, perché quelli poi non è che vanno a incidere moltissimo. Quello che, quando tu dici taglio, vuol dire questa gente pare i tagli, vuol dire licenziamenti, eccetera. Eppure è un atteggiamento che sicuramente c'ha radici anche relativamente lontane, perché insomma i sindacati confederali sono, insomma, la politica che hanno fatto da parecchi, l'hanno sempre fatta, ma sull'onda magari di situazioni diverse, era una politica leggermente diversa. Oggi proprio con questa proclamazione dello sciopero di 4 ore a fronte di una situazione così drammatica, E poi c'è stato Letta che ha detto che non è questo il momento, e poi abbiamo il segretario del Partito Democratico che è l'ex segretario generale della CGIL, per cui immaginiamo pure Camusso che magari gli telefona e dice che devo fare, e fallo dei 4 ore, poi insomma ci barca meno, che cavolo significa insomma. E d'altra parte io credo anche che nel senso sia un problema, bisogna porsi collettivamente del perché invece le forme di lotta vengano messe in campo di fatto non hanno risposta o ce l'hanno molto poca, perché questo sciopero generale, se non ci vogliamo girare tanto intorno, nelle scuole io non le so le percentuali di adesione allo sciopero del livello ministeriale. Quello che so è che nella scuola in cui io vado quotidianamente non c'è stato nessun dibattito, nessuna forma di scambio tra lavoratori e lavoratrici. Io poi ho chiesto un po' in giro, magari li ho trovati quei 2 o 3 che scioperavano, però non c'era nelle scuole. Ma a me quello che colpisce molto è che lo sciopero, tantissimi colleghi e colleghe dicono ah ma è uno strumento ormai inutile, io non lo faccio, sì, questa è vecchia, sì, questo, perdo soldi eccetera. Se scioperiamo tutti però da sì, solo che sciopera fa? E te li mandi a fanculo in quel momento, certo. Oppure cerchi di parlarci eccetera eccetera, però di fatto non si parla di niente nelle scuole di queste cose. In sala insegnanti, almeno nelle scuole che io ho conosciuto negli ultimi anni, non si discute di quello che ci sta cascando sulla testa. Raramente si trova un volantino, una locandina, cioè se ce la metti tu, ma altrimenti c'è veramente poco dibattito politico tra lavoratori e lavoratrici. Nelle scuole, almeno per la mia esperienza, in realtà non c'è dibattito politico in buona sostanza, c'è dibattito politico tra 4, 5, 6 persone che magari prendono determinate posizioni in certe situazioni e che vengono veramente in molti casi guardate come i poveri pazzi della congrega, perché però rispetto al discorso che facevi tu, sì, cioè evidentemente è così, è evidente che lo sciopero è un'arma, è una strategia che molti nostri colleghi definirebbero obsoleta, nel senso che comunque è dimostrato ha un'efficacia assolutamente sproporzionata rispetto a quella che è l'entità dell'attacco in qualche modo. Ma se tu senti la situazione che descriveva prima la compagna, la senti sulla tua pelle, beh sì, e pensi che lo sciopero è un'arma inadeguata, ti sforzi e ci sbatti la testa contro diverse possibilità che la scuola di manifestare il tuo dissenso, il tuo disagio, possibilità che la scuola ti presenta anche in determinate congiunture dell'anno. Abbiamo parlato più volte delle prove invalsi, delle manifestazioni per le 24 ore, cioè ci sono state tante occasioni e sinceramente quello che è venuto fuori è stato sempre lo stesso atteggiamento, cioè io sono più bravo degli altri alla fine. Ma comunque se vogliamo pure parlare di numeri, no? Le scuole a Roma sono tantissime, per cui se sciopera pure da me hanno scioperato 2 persone, 3, non lo so, su una novantina. Parlo di docenti e poi un'ATA su 22, per cui pure lì ce la fai poi a raggiungere una certa cifra se tutte le persone, c'è uno che è così motivato da scioperare in una circostanza così con questi sindacati, poi magari va anche in piazza, per cui raggiunge una certa cifra, no? Però anche una manifestazione nazionale, quella di Roma del 18, quindi insomma alla fine pure insomma spingo un po' più di essere così trionfalisti, insomma sarebbe da ragionare. Io me le ricordo manifestazioni della scuola, scioperi della scuola dei Gobas di qualche anno fa, dove veramente in piazza c'era tantissima gente, e poi io non lo so dove è finita questa gente, non erano certo nemmeno solo i cosiddetti e le cosiddette militanti e così via, insomma io non lo so, può darsi, questo lo metto anche come insomma stimolo al nostro silente pubblico, perché insomma penso che qualcuno ci starà a sentire ma non interviene, e può darsi che non ci sia niente da fare, può darsi che la scuola non sia una cosa avulsa, come intendo come persone che ci lavorano, ma per certi versi pure per chi ci studia, e che a questo punto dedichiamoci ad altro, non lo so, andiamo a scuola perché ci serve lo stipendio, ovviamente un docente poi avendo un rapporto umano con gli alunni magari può trovare motivazioni insomma più alte, come si dice, però poi lascia le energie, usiamole da un'altra parte, che ne so, io la metto come provocazione sul territorio, perché pure questa storia, cioè i grandi movimenti, l'ho detto già altre volte, i grandi sommovimenti all'interno della scuola sono stati il concorsone, insomma dell'ultimo trentennio, stato il concorsone famoso, quello proposto da il concorsaccio, sì, vabbè. E la cosa delle 24 ore, insomma, la proposta di, quindi attacchi proprio pesanti, e che poi non a caso sono rientrati, ma sì, certo, portare a 24 ore di lezione l'orario di insegnante avrebbe significato una falcidia sui posti di lavoro spaventosa, no? Più di quello che già c'è stato. E il concorsone o concorsaccio, come qualcuno orrendamente lo chiamava, era già una di che anno era? La fine anni 80? No, era dopo. Era già negli anni 90, ma all'inizio, quindi era già una manovra di altro tipo, con questi governi di centrosinistra che facevano, erano più realisti del re, e insomma entravano a piedi pari nel discorso del merito e così via. Insomma, è vero che tantissimi anni fa, insomma, l'equutamento dei docenti, a parte i concorsi che comunque c'erano con cadenze le più svariate ed erano anche, insomma, abbastanza tosti, però dagli anni 70 in poi si facevano questi corsi abilitanti e poi praticamente entravi, era questo, insomma, anche perché poi ci sono stati un po' di rivolgimenti, insomma c'era anche una scolarizzazione che era in ascesa e così via, insomma. E quindi quelli sono stati i momenti, li vogliamo definire corporativi? Insomma, qualcuno l'ha fatto, io sinceramente è una parola che non amo. Poi non è che voglio dire. Poi che però se non c'è una riflessione sul resto, ma finisce a essere solo su quello, diventa cioè difficile. Io ho visto gente all'epoca del concorsone, insomma, che veramente la più disparata. Lì è nata per esempio la Gilda. No, quello successe veramente a onor del vero in una lotta precedente, questa degli anni Ottanta, dove ci fu diciamo un aumento consistente degli stipendi degli insegnanti, ecco, sull'onda di quello poi insomma la Gilda ha preso piede, la Gilda oggi quello che è, insomma, e poi sono nati Cobas invece sull'onda, se ricordo bene, se qualcuno se lo ricorda meglio di me mi smentisce, su proprio della forza che anche di massa che ci fu rispetto alla questione del concorsone. Comunque, se possiamo effettivamente a volte rimanere un po' perplessi, adesso lo sciopero c'è stato, in piazza c'eravamo e tutto, penso ne possiamo parlare serenamente, a volte per prima la ritualità che caratterizza l'indizione di scioperi anche generali, nel senso che si fa a ottobre, il percorso per arrivarci non coinvolge luoghi di lavoro, eccetera. Comunque, se si vede una ritualità in questo, sì, mi rivolgo a chi come me lavora nella scuola, insomma esiste anche l'autodeterminazione politica di cercare altri percorsi, mentre quest'anno sembra che veramente si sia fermato tutto, o perlomeno si è fermato molto, anche da parte studentesca, anche quella ricchezza di quel paio di cortei che ci furono a ottobre scorso, che videro in piazza migliaia e migliaia di studenti e studentesse, parlammo molto di quanto erano coinvolte le periferie, scuole che normalmente non lo sono, sembrava un movimento in grado di portare come dire esigenze reali, concrete, materiali in piazza, poi però tutte e tutti, insomma, non ce lo siamo lasciati scappare questo momento, perché non ha trovato una via continuativa. Scarburato, macina a chilometri, corre sull'asfalto, legge tutto brucia, c'è chi spara di no, la terra ferma brucia, pensi, non può essere che boh. Cambiano i tempi, cambiano i governi, ma dietro le divise sempre le stesse merde. Credi di poter cambiare, di fare qualcosa per sovvertire questo vecchio mondo orribile. Violenza, sabotaggio. Sciopero selvaggio, violenza, sabotaggio. libero selvaggio, violenza sabotaggio. Sciopero selvaggio, violenza sabotaggio. Uno per fare, uno per cambiare, scrivi per unire. Allora, non vorremmo fare le pierine della situazione, però insomma parlavamo degli studenti e sicuramente quello che adesso vado a leggere non sarà rappresentativo, ovvero ci sarà sempre stato, però insomma oggi nella mia scuola è stato distribuito un foglietto perché ci saranno le elezioni del consiglio d'istituto, quantomeno sicuramente per la componente studentesca, che non so bene, ma ogni anno, esatto, quindi sicuramente. Allora, insomma, come al solito, questa è la lista 2, quindi presumo che ce ne sia almeno una lista 1, che si chiama Callista, che gioca su Callista, in realtà è la pronuncia, perché è un liceo classico, quindi che vuol dire la più buona, la lista migliore in un certo senso, ed è di 10 punti. E vediamo insomma questi volenterosi ragazzi e ragazze che cosa propongono ai loro compagni per essere votati e votate nel consiglio d'istituto. Allora, il primo punto è aumentare l'offerta di visite guidate all'interno della città di Roma. Il secondo punto, approfondimento dell'educazione musicale e teatrale con attività di laboratorio, creazione di gruppi. Questo è un po' fumoso, anche perché per esempio nella nostra scuola c'è una materia alternativa che è proprio educazione musicale, per cui non fare religione, va a fare la materia alternativa che è fatta molto molto seriamente, e così ci avrai la tua educazione musicale. Per il teatro vedremo. 3, proiezione film d'autore in lingua originale con commento di un esperto. Sei esperto? 4, promozione di una settimana di didattica alternativa. Questa è la vecchia autogestione, no, al posto dell'occupazione. Poi 5, percorso sulla Costituzione in collaborazione con esperti di rilievo, che insomma la Costituzione dovrebbe essere materia di educazione civica, ma esiste ancora educazione civica? Sì, formalmente sì, esiste. Io non ho mai fatto Costituzione e cittadinanza. Ma esiste, formalmente esiste, la io scuola non l'ho mai è forma, fatta, è così, è cultura immateriale. Sì, Poi analisi del bilancio scolastico, vogliamo capire quali sono le fonti di finanziamento pubblico e quelle di finanziamento privato del nostro liceo, soprattutto vogliamo chiarezza su come i fondi a disposizione della dirigenza del consiglio d'istituto vengano utilizzati. E poi quando ci hai avuto chiarezza, che fai? Rassegna, poi chiedono rassegna stampa italiana e estera su bacheca. Poi la rastrelliera per le biciclette. Ma poi la rassegna stampa su bacheca a tema, cioè che ci devono. Non si capisce, sulla scuola presumo, insomma non lo so. L'importante è che sia straniera estera. E sulla bacheca. Che non c'è la bacheca, cioè la rassegna stampa, se devi decidere, insomma, non è che puoi prendere due giornali, no? Poi la rastrelliera per le biciclette, poi vivere lo spazio scuola anche il pomeriggio con attività culturali di socializzazione, incontri di letteratura e arte contemporanea, questo già è più specifico, fra l'altro considerate in questa scuola insomma ci sono tantissime tantissime cose, le più roboanti, che ne so, la buonanima di Rosario Bentivegna, partigiano, il gappista di Via Rasella, per intenderci, questione Pribica eccetera, è venuto finché poveraccio poi è morto, e lo stesso vale per Miriam Mafai, cioè sempre questi insomma personaggi. E poi sull'attività culturale e socializzazione viene in mente Nanni Moretti, ma che fai? Beh, mi muovo, vedo gente, faccio cose. E poi metodi di protesta alternativi, che non si capisce che cosa c'entra nel programma, cioè, ma questo è un punto? È un punto, cioè questo ci sono cose di programma, no, se vogliamo, cioè noi andiamo al consiglio d'istituto perché vogliamo aumentare l'offerta di visite guidate all'interno della città di Roma, ma metodi di protesta alternativi che so. E niente, questo insomma è quanto. Fra l'altro adesso ci saranno le elezioni del presidente e del vicepresidente dell'assemblea degli studenti, insomma queste cose intristiscono in un modo. Perché c'hanno nella sua scuola c'hanno il presidente? E fanno il presidente e il vicepresidente. Quindi prima fanno le elezioni del presidente e il vicepresidente, poi non lo so. Insomma, a me, io non è che voglio fare la maestrina, però mi viene una tristezza a me proprio infinita. Sì, cioè, nel senso, però fammi capire, loro oltre a eleggere i rappresentanti hanno anche un organismo di gestione dell'assemblea degli studenti che formalizzano con un presidente e un vicepresidente, e poi vogliono qualcuno che gli fa la rassegna stampa. Certo, che non si sa chi è, fra l'altro poi apri la scuola il pomeriggio, la nostra scuola già è aperta 3 volte a settimana il pomeriggio, quindi con dei grossi problemi perché siamo sotto organico dei collaboratori scolastici, ma è proprio formale, ci hanno levato uno che ci spettava, e quindi è un grosso problema, insomma, riuscire a mantenere una cosa del genere, quindi si capisce. Il motto, perché le liste, come sapete, si presentano con un motto: le cose migliori nel modo migliore, che sembra pubblicità di, che ne so, cioccolata, frutta, così. Le cose fatte bene era lo slogan di una casa di latticini e cose del genere, insomma, non lo so. Ma questa è stata cattiva, però non per far le perine, ma anche così per far vedere che essendosi di fatto un po' interrotto un dibattito politico tra studenti e studentesse, che a volte invece abbiamo visto molto serrato in questi anni, ovviamente rimane un vuoto, e il vuoto viene occupato dai grillini o i piddini di turno, sostanzialmente, perché poi questa lista lascia un po' pensare a quello, ecco. Sì, ma diciamo comunque che se c'è qualcuno, insomma, un po' più consapevole dentro le scuole, non si presenta e non si è mai presentato al consiglio d'istituto, perché poi sì, i studenti stanno là, votano, ma i numeri li sappiamo. Questo è stato un grande bluff, quello dei decreti delegati, che a parte sulla partenza, insomma, in cui alcuni militanti di partiti particolari si sono impegnati perché pareva che, e sono stati anche trampolino di lancio per carriere politiche, non ce lo dimentichiamo, perché tu andavi a fare, parliamo insomma fino agli anni 80, facevi il presidente dell'assemblea del consiglio d'istituto, che è un genitore, poi diventavi presidente distrettuale quando ancora c'erano, e poi andavi in circoscrizione, e poi andavi al comune, e c'è gente che l'ha fatto anche come rappresentante degli studenti. C'è uno che non so se sta ancora al comune o addirittura è passato della destra, però non so in quale, diciamo, rivolo, che è partito come rappresentante degli studenti in un istituto romano, insomma, quindi sono stati anche questo, e quindi c'è sicuramente una componente degli studenti anche forte, grossa, negli anni passati, che non ha mai inteso andare lì a farsi prendere per fondelli poi di fatto. Sì, no, questo apre un capitolo veramente spinoso a cui forse potremmo dedicare un pochino di spazio, cioè quello dei decreti delegati, a parte che è vero quello che diceva la compagna, però al di là di tutto, voglio dire, a livello di partecipazione hanno rappresentato un esercizio, no, per la scuola, che in questo momento è veramente completamente interrotto, anche proprio come spazio di confronto e di elaborazione. Ma su questo, anche se siamo in chiusura e lo riapriremo, sì, di fatto parlare dei decreti delegati prima o dopo la legge sull'autonomia significa di parlare anche cose molto diverse, nel senso che i decreti delegati erano molto criticabili già in partenza, ma oggi sono proprio fuffa, nel senso che è entrata in vigore la legge sull'autonomia scolastica, di fatto il dirigente scolastico dirige la scuola, e il resto sì, deve perdere un po' di tempo a discutere con 5 insegnanti, però di fatto Sì, approva il bilancio, magari non ci capisce niente, perché non approva il bilancio consuntivo e preventivo, decide sulle chiusure eventuali, Bonti e cose del genere, sull'apertura, ma alla fine non è che... Non c'è più niente, al di là del fatto che poi la componente genitori non sempre è consapevole, spesso viene, come dire, stimolata da gente che lavora dentro la scuola, che può essere il preside, il segretario, eccetera, a candidarsi. A volte questa cosa succede. No, succede più spesso che a volte. Gli studenti, appunto, sono quelli che non hanno una visione complessiva politica, spesso, che si candidano, ma che, e quindi alla fine, come dire, poi decreti delegati vuol dire anche collegio dei docenti, a cui è rimasto da decidere veramente 4 cose l'anno, cioè di fatto c'è un governo monocratico nelle scuole in questo momento, però credo che ne potremo parlare anche più ampiamente di questo, visto che ora sono le 16:57 e quindi noi, come dire, lasceremo i microfoni rimandandovi alle prossime puntate. Vorremmo, non so se è martedì, ma insomma presto affronteremo l'argomento invece delle pulizie nelle scuole, di chi fa le pulizie nelle scuole. Stiamo parlando delle cooperative a cui viene appaltato il lavoro, che sono condizioni di lavoro ovviamente spaventose e sono invece parecchi soldi per le agenzie, insomma per le cooperative in sé. E vorremmo riparlare del TFA e io in chiusura vorrei, come dire, esprimere di nuovo la mia solidarietà a colleghi e a colleghe che è ormai un anno e mezzo e continuano a far prove di concorso, perché si stanno svolgendo gli orali di molte materie in questo periodo, il tutto per un posto che quest'anno non c'è, l'anno prossimo chissà, e forse tra due o no. Però è un anno e mezzo che sono impegnati in queste prove. E ricordiamo che proprio adesso a Porta Pia, qui a Roma, comincia il concentramento, perché di compagni e compagni, insomma di occupanti delle case, perché mi sembra verso le 18 è previsto, insomma, questo incontro col ministro Lupi delle infrastrutture e dei trasporti. E vedremo, insomma, che cosa ne uscirà fuori. Comunque l'appuntamento per il Movimento di Roma è lì a Piazzale di Porta Pia, dove ancora rimangono, insomma, le tende, il gazebo e la presenza, insomma, dello strascico, chiamiamolo così, della conclusione del grande corteo di sabato scorso. Ovviamente tutti e tutte in piazza, però chi non ce la fa, questa radio continuerà a seguire appunto questo pomeriggio anche con delle corrispondenze dalla piazza. L'Ora di Buco vi saluta, vi dà appuntamento a martedì prossimo sempre alle 16 e adesso andrà in onda il martedì autogestito da Femministe e Lesbiche. La nuova sigla ce l'ho questa volta. Meno male. Come?